البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا buongiorno Palestina. La musica come arte di resistenza. E questo è il filo rosso che ci accompagnerà per tutta la trasmissione di oggi. Non voglio anticiparvi nulla, lo capirete nel corso della trasmissione, ma oggi parleremo di un aspetto meno consueto di quello che di solito si tratta quando si parla di Palestina. La Palestina che conosciamo attraverso la TV è quella delle reazioni violente. Per la nostra TV, se non c'è violenza, non c'è notizia. A un livello di informazione più progredito, si parla della pulizia etnica della Palestina, di una lotta di resistenza che dura ormai da 70 anni. E talvolta si parla anche di Nakba. Ciò di cui si parla meno è della cultura della Palestina. Va ricordato che le città palestinesi costituivano, anni fa, l'elite culturale del Medio Oriente arabo. Di cultura della Palestina vogliamo parlare oggi per quanto riguarda un particolare aspetto, quello della musica, appunto. Ne parliamo con Alessandra Becozzi, che è stata responsabile esteri della FIOM e con cui discutemmo già la settimana scorsa a proposito dei mutamenti nella società israeliana e in quella palestinese. Alessandra prosegue ora il suo impegno verso la Palestina con l'associazione Cultura è Libertà, e di questo ci parlerà tra poco, appunto, dopo che Leo ci avrà letto la rassegna stampa della settimana. Buon ascolto. La stampa palestina l'ultima settimana di marzo 2020. Tutta la stampa del Medio Oriente era incentrata sulla coronavirus, sulla crisi in Palestina e in Israele e naturalmente sulla crisi politica in Israele. Primo titolo, un funzionario dell'ONU. Israele è giuridicamente responsabile della salute dei palestinesi, questo dal Middle East Monitor. Il diritto alla dignità prevede che ogni persona sotto la loro autorità debba godere di pari accesso ai servizi sanitari e dell'uguaglianza di trattamento, e questo non è garantito in Palestina. Il funzionario dell'ONU ha manifestato la propria preoccupazione per il fatto che i primi documenti informativi per incrementare la consapevolezza sulla diffusione del Covid-19, diffusi dal Ministero della Salute israeliano, siano stati scritti quasi esclusivamente in ebraico. Secondo titolo, Israele deve liberare tutti i bambini detenuti palestinesi in mezzo alla pandemia di Covid-19. Questo è un appello di DGIP, Defense for Children, International Palestine, difesa dei bambini internazionale, Palestina. Alla fine di dicembre 2019 dicono 187 bambini palestinesi sono stati nelle carceri israeliane, queste addirittura cifre israeliane, e chiedono di firmare un appello, chiedere alle autorità israeliane di agire immediatamente per liberare tutti i detenuti minori palestinesi. In mezzo a tutta la stampa, naturalmente in Israele era la crisi. E adesso la sorpresa, e questo leggiamo per esempio il manifesto. Gantz fascia blu-bianco e sceglie l'alleanza con Netanyahu. Il leader centrista Gantz, con un colpo di scena impensabile appena ancora qualche giorno fa, ha aperto le braccia al suo rivale di destra, regalandogli il quinto mandato consecutivo e la guida del governo per altri 18 mesi. Sono naturalmente furiosi i suoi ex compagni di partito. Questo è un articolo di Michele Giorgio. Poi abbiamo un'intervista molto interessante, un'analisi del giornale tedesco Junge Welt, che fa un'intervista alla più famosa, possiamo dire, più conosciuta, avvocatessa israeliana che sostiene da anni, da decenni, i diritti dei palestinesi. Titolo: il governo israeliano non tollera neanche la resistenza non violenta. Del suo lavoro come chiamato dagli israeliani avvocato che perde sempre, e l'impotenza dei palestinesi e della sinistra ebraica, Lea Zemel, così si chiama l'avvocatessa, appartenne in passato all'organizzazione socialista Matzpen ebraico Mussala, fondata nel 1962. Nel 2019 è uscito il documentario pluripremiato Advocate sulla sua vita e del suo lavoro. Molto interessante questa intervista e naturalmente anche il documentario che si può evincere anche su YouTube. Altra notizia, coronavirus, prima vittima palestinese e a Gaza altri 7 positivi. E questo è un articolo di Mena News. Si aggrava la diffusione del virus anche nei territori occupati. A Bidu, in Cisgiordania, è morta una donna di 63 anni. E a Gaza altre 7 persone sono risultate positive ai tamponi dopo aver avuto contatti, e avevano avuto contatti i 2 palestinesi contagiati e rientrati qualche giorno fa, ormai 8 giorni fa, dal Pakistan. In totale sono 86 i casi accertati dall'inizio dell'epidemia, i guariti sono 17. La Palestine Solidarity Campaign, ossia la campagna di solidarietà della Palestina britannica, tra l'altro molto attiva, molto efficiente, ricordava sabato scorso, 28 marzo, l'inizio della marcia di ritorno a Gaza di 2 anni fa, con il hashtag Exist Resist Return e hashtag End the Siege. Lo trovate sul sito www.palestinecampaign.org. E loro hanno chiamato questa giornata, che è stata molto seguita anche nella rete, Digital Day of Action for Palestine. Allora, giornata digitale di azione per la Palestina. Sempre sabato scorso volevamo fare a Firenze un presidio per ricordare la giornata della terra palestinese, che naturalmente Covid ce l'ha impedito. Questo ricordo, questa manifestazione avviene ogni anno e viene celebrato il 30 di marzo, che sarebbe stato ieri, ricordando il giorno della commemorazione dei caduti negli scontri del 30 marzo 1976. Il virus costringe per la prima volta in tutto il mondo, ma anche in Palestina, a commemorare la morte di questi sei palestinesi solo a distanza, ossia sui balconi, in Palestina anche sui tetti e naturalmente sui social. Si ferma anche a Gaza a 2 anni dall'inizio della grande marcia di ritorno. Ciao Alessandra, oggi parliamo di cultura della Palestina. Mentre la settimana scorsa, sempre su Buongiorno Palestina, su Radio Wombat, abbiamo parlato delle trasformazioni nella società israeliana e in quella palestinese. C'è qualche cosa che ci vuoi dire ancora a questo proposito o passiamo subito alla cultura? Io non so se avevamo parlato abbastanza delle modifiche avvenute dentro la società palestinese, che è una cosa ovviamente molto importante. Credo che avessimo accennato che tutto il periodo della rioccupazione dei territori, ovviamente in violazione degli accordi di Oslo, della seconda intifada, in cui ci sono state tantissime vittime, e aggiungo a questo tutto il processo di estensione delle colonie israeliane sui territori palestinesi, ovvero vedere che tanto impegno, tanta lotta, tanti morti in realtà non avevano portato al risultato che era pensato all'origine, cioè uno Stato palestinese indipendente. Ecco, tutto questo ha creato molta sfiducia nelle persone, molta sfiducia nella politica, intendo politica nei partiti, tutti quanti, proprio tutti quanti, e aggiungo ancora che dal 2006 non ci sono più state elezioni e ogni tanto si dice che le elezioni si faranno, ma le elezioni adesso poi è un momento molto drammatico, ovviamente anche in Palestina per la questione dell'epidemia del coronavirus, e le elezioni però non ci sono mai state dal 2006 a oggi e sono passati ben 14 anni. Tutto questo ha portato da un lato a una fiducia nella politica, a una chiusura anche della società palestinese, ha un irrigidimento, quando non una cancellazione, di quelli che erano stati i rapporti con le associazioni, con la società civile israeliana, esistono ancora o sopravvivono ancora alcuni gruppi che lavorano, di attivisti israeliani che lavorano insieme a palestinesi, come l'Alternative Information Center o i combattenti per la pace, che sono sia israeliani sia palestinesi, che hanno lasciato le armi e si sono espressi per la resistenza non violenta, i familiari delle vittime dall'una e dall'altra parte, cioè familiari israeliani di vittime di attentati, familiari di palestinesi vittime degli attacchi israeliani. Ecco, tutto questo ha portato a una situazione di chiaramente maggior chiusura della società in rapporto appunto sia alla politica interna sia alla politica verso gli israeliani. Quindi un irrigidimento da tutte e due le parti, sia da parte israeliana sia da parte palestinese. Sì, da parte palestinese direi che c'è stata piuttosto una, c'è stata e c'è, è cresciuta una forte sfiducia nella cosiddetta politica di pace che avrebbe dovuto portare allo Stato indipendente palestinese, quindi una forte sfiducia e un non credere più ovviamente in tutti i passi che erano stati fatti negli anni, che erano stati sostenuti anche finanziariamente con progetti sostenuti dalla Commissione Europea. Ecco, oggi tutto questo non c'è o c'è in minimissima parte, parti veramente residuali. E appunto, quindi non è una questione solo di irrigidimento, è per i palestinesi una questione di fiducia nel prospettiva che in qualche modo era quella, il quadro, diciamo, la cornice degli accordi di Oslo. Ecco, sul piano internazionale, come si è intervenuti? Perché dunque sul piano internazionale mi pare che negli anni 2000 ci siano stati due interventi di carattere, diciamo così, legale. Uno, quello del Tribunale Russell, e poi più recentemente la Corte Penale Internazionale, che si è un po' mossa, no? Ecco, il Tribunale Russell come ha operato? Allora, il Tribunale Russell per la Palestina, dobbiamo intanto chiarire subito che non ha uno status giuridico come la Corte Penale Internazionale, è un tribunale della società civile, è un tribunale organizzato e promosso da una serie di associazioni, particolarmente da Bruxelles, è stato un attivista molto importante, Pierre Galland, che ha lavorato moltissimo su questo, ed è stata una cosa molto importante, si è svolta con diverse sessioni a partire dal 2010 fino al 2013, una cosa molto importante per realizzare quello che era stato poi un po' il motto, diciamo, del fondatore del Tribunale Russell, Lord Bertrand Russell, che aveva nel 1966 costituito il Tribunale sui crimini di guerra nel Vietnam. E il motto era: possa questo tribunale impedire il crimine del silenzio. Quindi anche nel caso del Tribunale sulla Palestina è stato fatto mettendo insieme una giuria, mettendo insieme diverse sessioni in diverse città su diversi temi, è stato fatto molto per appunto rendere pubbliche le violazioni in tanti ambiti del diritto internazionale da parte di Israele e stimolare e sostenere l'iniziativa della società civile, dell'attivismo e così via. E si è concluso con dei documenti il Tribunale Russell, no? le sue sessioni. Allora, per chi eventualmente volesse saperne di più, potrà andare sul sito del Russell Tribunal on Palestine, alcune parti sono tradotte in italiano, altre diciamo sono in inglese, e troverà tutto quello che riguarda le diverse sessioni di Barcellona e di Londra nel 2010, di Cape Town in Sudafrica nel 2011, di New York nel 2012, di Bruxelles, sessione conclusiva, il cui documento conclusivo si può trovare in italiano, e la sessione straordinaria su Gaza nel 2014. Ecco, invece la Corte Penale Internazionale si sta occupando di un caso specifico, invece, mi pare, cioè la Corte Penale Internazionale ha deciso, è stato detto pubblicamente, che ci sono le condizioni per investigare sui crimini di guerra di Israele. Questo è quello che ha detto, e sono passati tanti anni da quando tra l'altro la richiesta era stata fatta. Adesso mi sembra che ci sia un momento di freno o di rinvio, più che sì, di freno e di rinvio per l'avvio di questi lavori investigativi, diciamo così, a causa appunto dell'epidemia, della situazione estremamente difficile che si trova poi in tutto il mondo, ovviamente anche per loro. Passiamo ora alla seconda parte dell'intervista ad Alessandra Micozzi, che ci parlerà del suo impegno in Palestina con l'associazione Cultura e Libertà e ci racconterà la storia di Ramzi, il giovane palestinese che ha fondato una scuola per ragazzi per insegnare la musica nella Palestina occupata. Tutto questo dopo un breve intervallo musicale. Ora veniamo alle cose di cui ti stai occupando tu adesso. Ti occupi, mi pare, di aspetti culturali, se non sbaglio. Sì, mi occupo, avendo fondato insieme a un altro gruppo di attiviste e attivisti nel 2013, questa associazione che è il soggetto che sostiene una campagna che si chiama Cultura e Libertà, una campagna appunto per la Palestina. Perché la cultura? Per due ragioni fondamentali. Una, quella di attraverso iniziative fatte qui con invitati artisti palestinesi di vario tipo. Una, quella di ampliare il pubblico, passare da un pubblico solo di attivisti storici, diciamo, o anche giovani attuali, passare ad un pubblico più ampio e coinvolgerlo sulla bellezza, diciamo, della cultura, ma ovviamente ogni volta spiegando anche che cosa succede in Palestina. Attraverso questo, perché la cultura pensiamo che sia un mezzo di espressione per tutti e di identità di un popolo. Espressione di identità che Israele, anche appunto sul piano della cultura, cerca di negare, quindi non solo una negazione fisica, una espulsione, le libertà militari, eccetera, ma anche una rimozione, o meglio, negazione della memoria e dell'identità palestinese. Quindi la cultura, essendo un mezzo di espressione dell'identità, per noi è centrale come sostegno alla lotta dei palestinesi per il diritto. Sì, mi pare che l'aspetto più evidente poi di questi tentativi di cancellazione della memoria e della identità sia il cambiamento di nomi delle strade, delle località, dei villaggi, cioè la distruzione della memoria, che tra l'altro è celebrata in una poesia famosa di Darwish, no? Quella Taxi si chiama. Vabbè. Ma tu, per quanto riguarda la cultura, tante cose, e tu ti occupi di qualche aspetto specifico? Ma allora, noi siamo partiti con un'idea di occuparci della cultura palestinese e in tutti i suoi aspetti. Naturalmente questo lo facciamo laddove c'è una compatibilità con la possibilità di sostenere anche economicamente l'invito, ad esempio, di artisti, di cantanti, di musicisti, di storici palestinesi. Al momento noi siamo partiti con un'iniziativa riguardante la musica, un'iniziativa particolare in collaborazione con la scuola di musica di Alcamangiati, che ci aveva richiesto di sostenere un progetto a Gaza di costruzione di un laboratorio per la riparazione degli strumenti musicali, che lì non ci avevano detto che lì non c'era, non avevano loro questo, e che era estremamente necessario data l'estensione delle attività musicali in tutta la striscia di Gaza. Ecco, perché questo Alcamangiati risuona familiare anche per noi qui a Firenze, perché abbiamo contribuito, per quanto ci è stato possibile, con degli spettacoli teatrali in cui abbiamo raccolto dei fondi per delle borse di studio, questo un paio di anni fa. Ma sì. Se ci racconti un po' meglio la storia di questo Alcamangiati, la sua origine, i suoi sviluppi e che cosa sta producendo adesso, cioè se questa scuola continua a esistere e a produrre musicisti. Sì, la scuola non solo esiste, non solo produce musicisti, ma è diventata ormai anche i suoi strumenti, i suoi organismi, musicali, come l'orchestra, ad esempio, di Ramallah, sono diventati conosciuti con tournée in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. Quindi sì, esiste ancora. Quando fu fondata nel 2004 l'associazione Alcamangiati, e poi addirittura il 2004 è stato proprio l'anno in cui per la prima volta noi li abbiamo invitati in Italia per una giornata dedicata alla pace contro la guerra in Iraq, e vennero con un gruppo che si chiama Da Luna, e fu un grande successo a Roma, al Teatro Inferno. La scuola di Alcamangiati, che ha sede a Ramallah, ma anche poi sue postazioni in diverse città, come Jenin, ad esempio, della Palestina, è nata e si è sviluppata appunto a partire dal 2004-2005 come, e secondo quanto voluto dal suo direttore Ramzi Abu Redouane, è nata per sviluppare le attività musicali soprattutto in luoghi della Palestina considerati difficili, tra virgolette, in cui nessuno aveva il coraggio di andare, e parlo tanto dei campi profughi, e con un'attenzione molto particolare ai giovani e anche bambini e giovani. Quindi ha cominciato anche da solo, questo ragazzo che si era formato in Francia al conservatorio di Angers, ha cominciato da solo a fare queste lezioni di musica nei campi profughi e poi si è sviluppato con un lavoro molto importante e molto coraggioso, considerando che muoversi in Palestina vuol dire attraversare checkpoints e superare molte difficoltà di varia natura. Ecco, noi a proposito di questo attraversamento di checkpoint termineremo questa nostra conversazione con una musica che fu suonata proprio da ragazzi di Alca Mangiati al checkpoint di Calandia, che a un certo punto si presentarono tutti insieme e si misero a suonare, e le guardie, diciamo i soldati israeliani rimasero un po' esterrefatti e non sapevano, cioè sanno ben combattere contro la violenza, ma non sanno combattere contro la non violenza. E questo fu un momento di entusiasmo e in qualche maniera di vittoria di questi ragazzi. Ma ti volevo chiedere una cosa. Dunque, parlavi della ricaduta di questa scuola nelle diverse parti della Palestina. Ma ci sono diverse scuole di musica, ci sono dei conservatori, ci sono delle scuole che producono dei musicisti veri e propri, ecco, voglio dire. Certamente, no, l'attività di cominciata, diciamo, da Scamangiati non è ovviamente l'unica. Ci sono, come dicevo, poi in Palestina, che è una terra in cui la popolazione è molto giovane, in percentuale 60-70% della popolazione sono giovani, la musica quindi è molto, molto cercata, molto prodotta, molto costruita. Allora ci sono sia scuole di musica, sia corsi di musica in molte scuole, in molte università. Ma anche anche a Gaza questo? Sì, adesso poi vengo a parlare di Gaza. Comunque c'è, ad esempio, il Conservatorio Nazionale Edward Said, che ha sede a Ramallah, è anche presente a Gaza. Sì, e quando quando parliamo di musicisti che vengono sfornati da queste scuole, ecco, si tratta di singoli, di gruppi, di orchestre da camera, ecco, a che livello di complessità? Perché una cosa è suonare in un gruppo, altro è suonare e organizzare un'intera orchestra. Ecco, certo. A che livello di complessità viene raggiunta da questi musicisti? Ma allora, come dicevo, in termini di, nel campo musicale, ci sono istituzioni, ci sono orchestre, ci sono anche, per andare su una musica più moderna, di giovani, tipo il rap, eccetera, ci sono anche piccoli gruppi di giovani che si costituiscono come band, che sono presenti in tutta la Palestina. Molti, per la verità, sono gruppi di giovani palestinesi di Israele, proprio gruppi rappisti, eccetera. Però per venire alla questione delle orchestre, allora c'è una Palestine Youth Orchestra che è molto importante, c'è costruita da Alca Mangiati una Ramallah Orchestra, che è una struttura musicale molto importante, che dà la possibilità appunto poi agli studenti di esibirsi in musica sinfonica, classica in genere, ma anche musica orientale palestinese. Poi bisogna ricordare una cosa molto importante, un'iniziativa molto importante, nata nel 99 dall'idea di un palestinese scrittore, saggista, intellettuale come Edward Said, e da un israeliano, Daniel Barenboim, musicista e direttore d'orchestra, i quali formarono, ed è ancora attiva, la West Eastern Divan Orchestra. E questa è una cosa molto importante, perché in questa orchestra i musicisti sono palestinesi, israeliani, e provengono anche da paesi di tutto il mondo, come Turchia, come Iran, come Spagna. Si sono aggiunti, credo, anche iracheni negli ultimi anni. Ecco, quindi questa anche è una molto importante istituzione. Quindi, per riassumere, ci sono orchestre, c'è musica classica, musica sinfonica, musica tradizionale palestinese, musica modernissima, contemporanea, come il rap. Ecco, la volta scorsa ci parlasti della politica dei respingimenti da parte di Israele, che sta diventando un po' un ostacolo grosso al passaggio di persone e al passaggio di materiali. Ecco, ci sono difficoltà alla importazione di strumenti musicali? Cioè, quando uno va perché alcuni strumenti vengono donati anche da parte, mi ricordo da parte nostra, si donò un violino e qualche cosa d'altro ancora. Ecco, ma ci sono delle difficoltà a far entrare questi strumenti dentro la Palestina? Ma ci sono moltissime difficoltà, direi a volte anche impossibilità, a far entrare a Gaza, che poi è il posto dove noi lavoriamo di più. E ci sono difficoltà dovute al fatto che in realtà è l'importazione di tutto, di qualsiasi bene, diciamo, che ha difficoltà ad entrare a Gaza, tanto è vero che noi tre anni fa a Gaza avevamo avuto in regalo da un musicista francese, avevamo avuto in regalo dei violoncelli da riparare, e tre ne abbiamo portati noi personalmente, in tre, io più altre due amiche, e l'abbiamo portato in aereo a mano. Ecco, su quelli non c'è stato problema, era un bagaglio a mano e ha viaggiato, siamo entrati avendo avuto il permesso di entrare a Gaza, e ho avuto il piacere di vedere che uno di questi violoncelli finalmente è funzionante proprio al conservatorio Edward Said, che è stato anche in grado di ripararlo. E il conservatorio di Gaza è riuscito a sopravvivere malgrado i bombardamenti e le vicende tragiche a cui è sottoposta sta Gaza? Sì, il conservatorio di Gaza è un'istituzione centrale, diciamo così, e molto frequentata, come ho potuto vedere, dai ragazzi, ragazze. E' anche interessante che il conservatorio di Gaza faccia anche organizzi non solo le lezioni al conservatorio, ma organizzi anche un'educazione musicale diffusa e anche un insegnamento del canto attraverso cori in posti più marginali dentro la striscia di Gaza, non nella città, ma per esempio nei campi profughi, per esempio al confine con l'Egitto a Rafa. Ed è ancora molto attivo, ho avuto proprio ieri un messaggio della sua direttrice che mi dice che in questo momento difficilissimo per quanto riguarda la questione dell'epidemia del coronavirus, hanno cominciato anche loro a fare lezioni online, e mi diceva appunto quanto è difficile, quanto è pesante anche dal punto di vista economico, ovviamente, riuscire a realizzare questa mutazione, diciamo così, della loro attività. Ecco, su tornando a Alka Mangiati, mi parlavi di una storia abbastanza avventurosa di questa vicenda, no? Dalla prima intifada, poi a vicende varie che poi hanno portato alla costituzione della scuola. Questo è documentato da qualche parte? C'è qualche cosa che si possa leggere a questo proposito? Ma ci sono, va bene, andando su internet e cercando Alka Mangiati, ovviamente ci sono molte informazioni, molti articoli, poi ci sono anche su vari siti interviste fatte a tanti, quindi diciamo la possibilità di conoscere. C'è una cosa che io ho avuto modo di conoscere proprio perché Ramzi mi aveva dato questo libro, è un volume che si chiama Children of the Stone, che è stato scritto da un americano, Sandy Tolan, molto bello, perché questo è proprio la storia della scuola, le sue avventure e disavventure, e del suo direttore. Il suo direttore, adesso non più, è il fondatore, che è stato per molti anni direttore, adesso c'è un nuovo direttore. Comunque il suo direttore, Ramsey, era un ragazzino, ha girato il mondo, la sua foto che tira le pietre contro i militari israeliani durante la prima intifada, un ragazzino allora che era nato e cresciuto nel campo profughi di Alamari, vicino a Ramallah, e che poi ha avuto l'occasione e la possibilità di andare a studiare in Francia al Conservatorio di Angers, e da lì è nata la sua idea appunto di fare l'associazione, e un'associazione che costruisse queste scuole di musica, come dicevo, per i bambini in Palestina, particolarmente nei campi profughi, ma arrangiati anche delle attività tra i profughi in Libano. Ecco, ricordavo, questo... no, volevo ricordare questo libro, che è un grosso libro, grosso nel senso che sono 400 pagine, scritto in inglese, recentemente pubblicato anche in Francia, in francese. Noi stiamo per, tra l'altro colgo l'occasione, approfitto un po' della trasmissione per chiedere anche a chiunque possa farlo, di se c'è un editore che possa pubblicarlo in Italia. Noi possiamo attraverso traduttrici professionali che io ho già individuato, almeno tre devono essere o quattro, tradurlo, caricarci diciamo il costo della traduzione, a patto che ovviamente poi l'editore ci fornisca un certo numero di copie che possiamo vendere per coprire questi costi. Il libro veramente è bellissimo. È bellissimo, scritto bene, con molti particolari, è scritto anche in forma, scritto anche tenendo conto della storia ovviamente della scuola e del suo direttore, ma anche di tutto quello che è successo in Palestina negli anni appunto che vanno dall'inizio, anni, primi anni 2000 fino ai 2000, direi fino al 2015. Ovviamente se lo traducessimo, se potessimo pubblicarlo in Italia, cosa che sarebbe veramente un sogno, verrebbe aggiornato anche con gli anni, ma anche con l'esperienza di Al-Kamangiati in Italia, che è stata un'esperienza molto bella, molto importante negli anni 2000. Quindi questo Children of the Stone, quindi figli della pietra o bambini della pietra? Sì, della pietra, perché fa riferimento appunto a quello che dicevo, e c'è cioè questo ragazzino Ramsey che tirava i sassi contro i militari, contro i carri armati durante la prima intifada, e che poi ha maturato anche attraverso quell'esperienza in Francia, ma ha maturato l'idea di passare, di usare diciamo così la musica, l'apprendimento della musica come una forma di resistenza non violenta. Ho capito. Una domanda che mi viene: le sciagure piombate sul popolo palestinese da 70 anni a questa parte ne hanno in qualche maniera fiaccato l'aspetto culturale o della musica? Perché in una situazione difficile viene forse poca voglia di fare musica o di cantare o di essere allegri. Ma che cosa è successo a questo proposito? La musica è stata rafforzata, è stata indebolita, e in generale la cultura che cosa ne ha subito? Ma io direi proprio per quello che dicevo prima, cioè questo considerare la musica come arte di resistenza, proprio questo fatto, proprio il fatto che ci siano così tanti giovani, in realtà ha rafforzato in qualche modo questa volontà di resistere, ma anche di comunicare, perché come per tutti i giovani del mondo, la musica è un mezzo di espressione, ma anche un mezzo di comunicazione che non conosce confini. Quindi diciamo che questa attività si è molto rafforzata. Perché in effetti la musica è tante cose e rispecchia sia sentimenti umani diversi, sia aspetti di impegno e di lotta. Dunque, tu mi dici quello che si trova nella musica palestinese sono delle, certe volte sono delle sinfonie, perché sinfonie di Beethoven, di musica classica, ma c'è anche dell'altro. Certo, c'è musica classica, ma c'è anche molto la, appunto, quella che è, diceva Ramzi, una forma, diciamo così, un aspetto dell'identità molto forte, che è la musica tradizionale palestinese. Tra l'altro al Kamangiati ogni anno, ovviamente quest'anno è stato sospeso, ma ogni anno fa un festival musicale attraverso tutta la Palestina, bellissimo. Io ho avuto la possibilità di andarci per 2 anni, per 2 volte, un festival che gira tutta la Palestina e che si svolge molte volte anche in siti storici, archeologici, che così diventano anche quello parte di questo recupero e affermazione di identità palestinese. Ho capito. E allora si tratta, possiamo dire, la musica come arte di resistenza, è così? Sì, la musica come arte di resistenza. Questo tra l'altro era stato un slogan, un motto, diciamo così, con cui avevamo anche intitolato un'iniziativa proprio musicale a sostegno di Al-Kamangiati e del laboratorio di riparazione degli strumenti, un'iniziativa musicale di solidarietà, in questo caso fatta con artisti italiani, in particolare la grande Giovanna Marini e il coro e la banda di Testaccio, della Scuola Popolare di Testaccio, una iniziativa bellissima attraverso cui raccogliemmo appunto questi fondi per Al-Kamangiati, che si svolse 4 anni fa nel parco della Casa del Jazz a Roma. Fu una cosa bellissima, come notazione così un po' più triste, devo dire che i soldi che noi raccogliemmo lì e attraverso altre iniziative per dar vita a Gaza questo laboratorio di riparazione degli strumenti musicali, purtroppo non riuscì questo laboratorio a essere costruito, e per il motivo che Israele non ha mai dato nel corso degli anni i permessi di entrata ai musicisti, ai tecnici che venivano da Ramallah e che avrebbero dovuto essere gli insegnanti per i tecnici in loco Gaza. Comunque i soldi andarono comunque, li abbiamo poi deciso insieme con Al-Kamangiati di darli a loro per sostenere appunto il loro festival annuale che si è fatto fino all'anno scorso, ecco, bellissimo, ripeto, molto molto bello. Quest'anno volevamo anche, avevamo già tutti i biglietti per fare un piccolo gruppo che dall'Italia andava a seguire questo festival, e purtroppo questo anche è saltato per ora. Vedremo poi in futuro. E quindi per la riparazione degli strumenti o per la loro fabbricazione, risorse locali ce ne sono significative? Sì, ma c'è un laboratorio, un piccolo laboratorio di riparazione che sta proprio all'interno del conservatorio di Al-Said, ed è appunto quello che poi a cui abbiamo dato i 3 violoncelli che avevamo portato e che ha cominciato a ripararli, e uno è già in funzione. Ho poi scoperto, proprio l'anno scorso, nell'ultimo viaggio che ho fatto a Gaza, che c'è anche un negozio di strumenti musicali a Gaza. Quindi diciamo che sempre limitatamente alle possibilità, diciamo, rispetto ai limiti che sono imposti dal controllo israeliano, hanno delle risorse locali, come dicevo, perché la musica è veramente diffusissima, quindi le scuole hanno, anche le scuole superiori e università hanno, richiedono, e quindi richiedendo corsi corsi di musica, iniziative musicali richiedono ovviamente anche che gli strumenti possano essere riparati, ecco, quindi per questo è così importante il fatto di avere un... Question. There might some people come, I mean not people, some police or soldiers or anything. Nobody of you have the right to speak with any soldier. We are going to play, not to speak, not to give our opinion, not to do anything. If there is somebody who will speak, it will be Peter. We don't need to fight, we are not going to fight. If we want to fight, then we will call tomorrow for a fight. If the soldier come and say stop, do as if you don't see them, you know. Just go on playing. Just go and playing, you know. Even if they come near to you and look and tell you stop, do as exactly you don't hear. Don't see, just play, just play. أو مثلاً أعصبهم هيك بحب أنا هيك e sulle note della musica di Ramsey al checkpoint di Calandia. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo alle 18. Inshallah! Calandia, you know, I mean...